Economia, il futuro senza denaro di Devana. Introduzione. Nel 1996 vivevo a Milano. Una sera andai in un piccolo cinema d'essai dietro a Piazza del Duomo a vedere un film che si impresse nella mia vita e nella mia immaginazione come un marchio. Era Il pianeta verde della regista francese Colleen Serrault, autrice del più famoso Tre uomini e una culla. Colleen Serrault sicuramente ha dato uno sguardo oltre, scrivendo, interpretando e dirigendo questo film. La deliziosa e intelligente commedia racconta di un pianeta, il pianeta verde, appunto, talmente progredito da inviare periodicamente degli osservatori per tenere sotto controllo e contribuire allo sviluppo della vita degli altri mondi. Tuttavia, l'evoluzione di cui gode il pianeta verde non è tecnologica, bensì spirituale, poiché esso è beneficiato di un'eterna primavera, la temperatura è costantemente tiepida. Ogni sera piove per un'ora e questo provvede alle necessità idriche. Gli abitanti vivono ai bordi dei laghi, all'aperto, e dormono in accoglienti nidi d'erba dal tramonto all'alba. Si bagnano nelle acque dei laghi, sempre calde e tranquille, non hanno automobili poiché nel loro piccolo pianeta si muovono a piedi oppure utilizzano bolle di energia per spostarsi da un pianeta all'altro. Queste bolle vengono create da un gruppo di loro che, unendosi in un abbraccio intorno a colui o colei che vuole viaggiare, le fabbricano istantaneamente. Le loro giornate sono impiegate nel seguente modo. Il mattino viene dedicato in parte all'agricoltura e in parte all'allenamento fisico tramite giochi acrobatici. Ogni famiglia ha il suo gioco specifico. Trapezio, salto, equilibrismo e tutta la famiglia vi partecipa, anche i vecchi. E tutti, indistintamente, si dedicano all'agricoltura. Il pomeriggio è dedicato ad allenare il cervello con esercizi di telepatia, teletrasporto, chiaroveggenza e trasmissione del pensiero, matematica dello spazio, viaggi interstellari. I più giovani sono guidati inizialmente da maestre e maestri, comunicano tra loro telepaticamente e hanno la capacità di disconnettere gli abitanti di altri pianeti dai loro copioni di comportamento e dai loro sistemi di credenze, per restituire loro creatività e autenticità. Sono molto longevi. Si vestono con tessuti naturali e si cibano di frutta, legumi, olive, cereali, semi e verdura cruda appena colta. Bevono acqua pura e latte. Ascoltano concerti di silenzio e naturalmente non utilizzano denaro. Una volta l'anno, all'Assemblea Generale del Pianeta Verde, tutte le comunità si radunano in un grande spiazzo verde sopra una montagna e mettono liberamente a disposizione ciò che hanno per chi ne ha bisogno. In quell'occasione i delegati delle comunità rendono note le disponibilità e le necessità di ogni villaggio. L'assemblea si svolge in cima a una montagna perché camminare in salita, dicono, rende più intelligenti e meno aggressivi. Di seguito riporto i dialoghi della scena dell'assemblea. Ci servirebbe della segale. Io ho dell'avena. Io ho della frutta secca. A noi occorrono piselli. Chi vuole erbe medicinali? Io. Ce n'è in abbondanza per tutti. Io ho lana. Chi ne vuole? Quanti coltelli da forgiare quest'anno? A noi serve un professore di telepatia. D'accordo, vengo io quest'anno. E a noi un professore di ascolto. Io posso, ma solo per 6 mesi, mi deve nascere una nipotina. I matrimoni? Io. Adesso i morti. C'è stata Taia, 255 anni, Zeca, 248, Aramo, 265, Caletta, 262, tutti morti felici e saggi. E poi c'è stata la morte di Amil, che aveva solo 143 anni. Ha avuto un incidente, è stato travolto da una frana. Gli abitanti del pianeta verde considerano arretrati i pianeti dove si mangiano alimenti di origine animale, dove si utilizza denaro per gli scambi e dove si viaggia in automobile. Quando, durante la riunione, giunge il momento di scegliere gli osservatori da mandare su altri pianeti, riporto i dialoghi. Quest'anno bisognerà mandare qualcuno sulla Terra. Sono 200 anni che non ci andiamo. Chi vuole andare sulla Terra? Nessuno fiata. Su Narvos? Io! Possiamo mandarne solo 10 su Narvos, accordatevi. Sulla Terra? Nessuno fiata. Su Cristo? Io! Possiamo mandarne solo 23 su Cristo, mettetevi d'accordo. Chi vuole andare sulla Terra? Nessuno per la Terra? Ma come facciamo? È come al solito, non ci si va. È così da 200 anni, quest'anno dovremmo mandare qualcuno. A fare cosa? Osservare, informarsi, vedere che cosa si può fare. Ah, non si può fare niente. Su tutti gli altri pianeti ci insegnano qualcosa, come noi a loro, ma sulla Terra? Beh, il fatto che siano arretrati non è una buona ragione. Poi parla l'unico ancora in vita che è stato sulla Terra 200 anni prima, vale a dire più o meno in epoca napoleonica, e la descrive come un luogo veramente duro, dove violenza, sottomissione e massacri sono regole di vita. Dice: sentivamo che ci avrebbero messo dei secoli ad uscirne, avevano persino ancora il sistema della moneta. La moneta? Che cos'è la moneta? Beh, per esempio, se tu vuoi qualcosa non lo puoi avere se non hai una moneta. Neanche da mangiare? Soprattutto! Ma mangiare è una necessità. Ah, oh, se ne infischiavano, se non avevi una moneta, niente. E credi che ce l'abbiano ancora questa moneta? Ah no, penso di no ormai, quando siamo venuti via era l'inizio dell'era industriale. Che cos'è? Sembra che ci siamo passati anche noi circa 3.000 anni fa. La competizione, la contabilità, la produzione in massa di oggetti inutili, la guerra, il nucleare, la distruzione della natura, le malattie senza rimedio, la preistoria, insomma. L'anno scorso mio fratello ha fatto un sogno telepatico sulla Terra. Ha visto donne col velo sul viso che non avevano diritto a guidare le automobili. No, non è possibile. Vuoi dire che hanno ancora delle automobili? Forse in questi 200 anni avranno avuto il tempo di sbarazzarsene. Naturalmente, i popoli più evoluti, secondo la loro visione, sono proprio quelli che gli abitanti della Terra considerano barbari e arretrati. Scendendo sulla Terra, gli esploratori si trovano perfettamente a loro agio tra gli aborigeni australiani, che vivono in maniera simile alla loro e sanno utilizzare molto bene le capacità telepatiche. I loro professori di archeologia sostengono che la deriva dei continenti diede origine a razze diverse e che quando queste si incontrarono, le più arretrate, cioè noi bianchi, presero il controllo del pianeta sottomettendo le più evolute. Dicono sul pianeta verde. Loro non sanno comunicare, probabilmente stanno ancora giocando con i loro calcolatori senza occuparsi dei loro cervelli. Forse non sanno usare che un decimo dei loro cervelli. Naturalmente loro siamo noi. All'uscita dal cinema decisi che avrei messo per iscritto la visione che avevo ricevuto in sogno quando avevo circa 7 anni e che avevo tentato di spiegare a mio padre senza però riuscire a fargli comprendere che non stavo parlando di un ritorno al baratto. Le mie parole di bimba non erano adeguate a spiegare quello che avevo visto. Mi ci volle una laurea in economia e la possibilità di studiare approfonditamente quanto di più mostruoso e aberrante la mente umana abbia concepito nella sua evoluzione: il sistema monetario e bancario, i governi centralizzati, la produzione industriale di massa, il marketing, ovvero la creazione di falsi bisogni per poter produrre e smerciare beni inutili, l'ingegneria genetica e la chimica applicata all'agricoltura e all'allevamento, l'utilizzo del petrolio come fonte di energia. La mia laurea mi è servita ad una cosa soltanto, a capire di cosa non mi sarei mai voluto occupare. Così nel 1996 redassi la prima versione di questo libro. Beh, in realtà buttai giù di getto il trattato contenuto nell'ultimo capitolo, lo chiamai Bioeconomia e fino ad oggi non ho trovato nessuno, non solo disposto a pubblicarlo, ma neanche a prenderlo sul serio. La risposta di tutti coloro a cui l'ho sottoposto è stata utopia. Ma proprio questa è la risposta che da sempre tutti gli innovatori, scienziati, profeti, visionari, esploratori e anticipatori hanno ricevuto quando hanno proposto un'idea anticonformista. Quante volte coloro che erano in anticipo sui tempi sono stati derisi e tuttavia a distanza di anni le loro visioni sono diventate la nuova realtà comunemente accettata. In questo caso, oltretutto, Non ero nemmeno la prima ad avere pensato a un sistema economico alternativo. Avevo avuto più che illustri predecessori. Quando trovai un editore disposto a pubblicare la mia visione, decisi di studiare e analizzare le opere di tutti coloro che avevano descritto il ritorno dell'età dell'oro o la società ideale. Decisi anche di cambiare il nome della mia visione. Infatti, bioeconomia era una ripetizione inutile. La parola eco già di per sé ha un significato. Viene dal greco oikia e significa famiglia, comunità, e noi oggi la utilizziamo per intendere ciò che rispecchia e promuove la vita senza danneggiarne nessuna componente. Questo è anche ciò che intendiamo con bio, che in greco significa vita. Così mi accorsi che nella parola economia era già contenuto in memoria il seme di ciò che avrebbe dovuto essere. La parola greca economia avrebbe dovuto significare governo della comunità, cioè regolamentazione dei rapporti e delle manifestazioni di una comunità, in modo che essa si sviluppi al meglio delle sue potenzialità e che tutte le sue componenti stiano bene senza che alcuna venga danneggiata. Spero che il seme eco contenuto nella parola economia possa germogliare e svilupparsi finalmente in un prossimo futuro, dando origine a una società meno tecnologica e più consapevole delle sue risorse mentali e biologiche, meno individualista e più attenta ai bisogni e al bene della comunità. Prima parte. Capitolo primo. Non è una novità. Già, non è proprio una novità un trattato sulla possibilità di vivere in pace, in armonia, in buona salute e soprattutto in abbondanza senza denaro. Come ho detto, non sono stata la prima a pensarci e non sarò l'ultima. Ho avuto precedenti illustri, a cominciare dai druidi celti, quali nel loro concetto di altro mondo avevano illustrato una società perfetta che non necessitava di scambi in denaro. Nel 1512 l'inglese Thomas More scrisse il suo trattato Utopia, narrando di un'isola felice nella quale tutti gli abitanti vivevano nella gioia e nella prosperità, senza denaro. Poi fu la volta, nel 1602, dell'italiano Tommaso Campanelle, della sua Città del Sole, a causa della quale fu aspramente perseguitato. Come vedremo, Campanella trascorse più di metà della sua esistenza rinchiuso nelle carceri dell'Inquisizione. Nel 1627 l'inglese Francis Bacon scrisse La Nuova Atlantide, nella quale era di nuovo teorizzata una società felice e completamente realizzata, sebbene a mio avviso troppo basata sulla tecnologia, dove gli abitanti erano molto longevi e in sintonia con le dimensioni sottili. Lev Tolstoi, di nascita nobile, era conte, donò tutto quanto aveva alla moglie e ai figli e ai suoi contadini e scelse di abbandonare ogni forma di proprietà. Il suo saggio, Il regno di Dio è in voi, scritto tra il 1890 e il 1893, ispirò al Mahatma Gandhi la filosofia della non violenza. Fu proprio dopo aver letto il saggio di Tolstoi, infatti, che il sommo statista indiano delineò il manifesto programmatico della sua linea politica. In questo suo saggio, il grande scrittore russo parla chiaramente di una società che potrebbe essere perfetta a patto che venissero abolite la proprietà privata, ogni forma di autorità, la caccia, le religioni e le chiese, per lasciare spazio invece alle comunità basate su cooperazione, alimentazione vegetariana, rispetto per la terra e educazione aperta a tutti. In tempi più recenti, Lobsang Rampa, famoso autore del bestseller mondiale Il Terzo Occhio, narra della città astrale di Patra, che a suo dire esiste veramente, in una dimensione parallela nelle montagne dell'Himalaya tibetano, una città meravigliosa abitata da persone meravigliose che vivono e scambiano senza denaro. Jimmy Parada, la mia controparte spirituale in Perù, mi ha raccontato che sulle Ande, la società che precedette gli Inca, vivevano esattamente così. Riporto le sue parole che egli trae dal ricordo di un libro introvabile intitolato L'Impero del Sole. Dice: Nella nostra cultura ancestrale andina, ciascuno si occupava di ciò che nasceva spontaneo dal suo cuore, agricoltura, ceramica, tessitura, e questo nutriva la sua anima e lo rendeva migliore. Questo sistema faceva sì che non ci fosse necessità di denaro e che ciascuno avesse in abbondanza ciò che gli necessitava. Più Più tardi, gli Inca hanno assorbito la visione andina e l'hanno sviluppata, portandola al suo massimo splendore. Nell'impero Inca non esisteva denaro, ma tutti potevano usufruire e godere di ciò che avevano bisogno. Il cibo veniva distribuito secondo le necessità e tutti erano felici, perché ognuno sceglieva il mestiere che gli piaceva. Nella civiltà andina, questa società aurea si è potuta incarnare veramente. Non è stata un'utopia, ma una realtà che purtroppo si è persa con l'arrivo degli spagnoli. Gli Inca non hanno mai pensato che un pezzo di carta così miserabile come il denaro potesse garantire la vita. Inoltre, in Capacnan, la ruta Inca de Sabiduria di Javier Layo, si legge: gli occidentali identificarono il Tahuantinsuyo, il territorio composto da Argentina, Ecuador, Perù, Bolivia e Cile, unificato dagli Inca in un'unica nazione, come la terra senza male. Prima di Colombo, in Occidente, si identificò l'America con questo centro spirituale o paradiso perduto e culla dell'immortalità. È certo che dopo l'invasione del Nuovo Mondo, la società Inca ispirò tutti quegli utopisti che apparvero nei secoli seguenti all'occupazione. Insomma, sembra che ogni volta che ci troviamo ad avere a che fare con società molto evolute e che si sono lasciate alle spalle tutti i problemi, i soprusi e le meschinità che affliggono la società odierna, tali società presentino un minimo comune denominatore. Non usano denaro. È possibile? Ebbene sì. Sarebbe possibile già oggi, adesso, in questo nostro mondo, e ve lo dimostrerò. Naturalmente il presupposto di base è quello che la società sia formata da persone evolute che non pensano ad approfittarsi degli altri o a scansar fatiche. Ma come sarebbe possibile vivere senza denaro? Semplice. Il denaro è superfluo, non si mangia, non si pianta. Il denaro è solo una convenzione umana, utile come sistema di scambio, fino a che non se ne troverà uno migliore, o fino a che, addirittura, non si sia superato il bisogno di scambiare, adottando al suo posto il sistema di condividere, lasciare liberamente a disposizione della comunità il frutto del proprio lavoro. Vorrei puntualizzare che a me piace ciò che posso ottenere attualmente con il denaro. Non sto propugnando una società povera, dove ci si limiti ad avere il minimo necessario alla sopravvivenza. Non parlo di vivere nelle ristrettezze, al contrario, mi piace il concetto di abbondanza. Mi piace essere immersa nella bellezza, nell'eleganza, nell'ordine e nella pulizia, tutti concetti che non si coniugano con la povertà. In tutte le società evolute, teorizzate dai miei predecessori, non ce n'era una che fosse povera o limitata. In tutte si stava comodamente bene. E sapete perché? Perché per vivere nell'abbondanza il denaro è assolutamente inutile e superfluo, anzi, esso è proprio ciò che procura maggiori ristrettezze, poiché l'ansia di procurarsene sempre di più è proprio quella che ci impedisce di utilizzare le nostre innate capacità creative per mettere in moto la macchina dell'universo e fare in modo che ciò che desideriamo venga a noi senza fatica. La filosofia cinese di Lao Tse ha utilizzato un'espressione che in due parole sintetizza perfettamente tale concetto. Si tratta del Wu Wei, la non azione. Perché il denaro, come spiego nell'ultimo capitolo di questo libro, è esclusivamente il prodotto della paura e del bisogno di proteggersi, della paura di essere soli e isolati e di un distorto metro di valutazione del proprio valore. Nella nostra società, infatti, il denaro misura quanto valiamo. Chi non guadagna non vale nulla, anche se è un artista dal cuore pulito e ricco. Chi guadagna è da ammirare, anche se è un farabutto. Non accuso il denaro, poiché in sé non ha valore se non quello che noi gli attribuiamo. Esistevano società nell'antichità talmente primitive, tra virgolette, da non dare alcun valore all'oro, al punto da utilizzarlo solamente per ricoprire i templi. Il valore è qualcosa che dipende da noi e dal sistema di credenze con cui abbiamo stabilito di vivere. Io amo ciò che col denaro posso procurarmi, come ho detto, una vita comoda, bellezza, cultura ed eleganza intorno a me. Ma dico che tutto questo potrei averlo anche senza denaro, poiché non è guidando un biglietto di banca che posso spostarmi. Mi occorre un mezzo di trasporto. Non è coprendomi con un biglietto di banca che posso ripararmi dal freddo, bensì vivendo in una comoda e bella casa con vestiti caldi. Tutto questo non è denaro, ma è ciò che il denaro mi permette di procurarmi. Il denaro è un mezzo per raggiungere un obiettivo, obiettivo che potrei raggiungere anche senza denaro, poiché è già lì, esiste già. Cosa succederebbe se tutto il denaro esistente dovesse essere per magia bruciato in una sola volta nelle piazze di tutto il mondo? Forse che i beni smetterebbero di esistere o non potrebbero più venire prodotti? Potremmo continuare a fare tutto quello che facciamo anche senza denaro? Certo. E come? Fidandoci degli altri, facendo il nostro lavoro, sicuri che anche gli altri fanno il loro, producendo beni o servizi sapendo che anche gli altri lo fanno, garantendo a noi tutti i beni di cui abbiamo bisogno, così come noi faremo per loro, senza bisogno dell'intermediazione del denaro. E come metro di valutazione del nostro valore, potremmo cominciare a considerare lo stato di salute della società in cui viviamo. La società è l'insieme di coloro che la compongono. Se la società, se la collettività è sana, noi stiamo bene, altrimenti no. Quindi, affinché noi possiamo star bene, tutto il sistema deve stare bene. E se il sistema sta bene, allora stiamo bene anche noi. Nessuno nel lungo periodo può prosperare sullo sfruttamento e l'infelicità altrui, perché finirebbe come quel famoso re di un regno senza sudditi. Nelle prossime pagine offrirò un excursus storico delle opere che prima di questa hanno descritto il sistema senza denaro e poi nella seconda metà del libro dimostrerò come già da subito, il tempo che una buona parte di noi elevi il suo stato di coscienza, la società potrebbe trasformarsi in una economia, ovvero in una serie di comunità che promuovano la vita, il bene collettivo e l'abbondanza senza bisogno di denaro. Buona lettura. Devana, novembre 2008.